Il cinema, come ogni giovedì, dalle 14 alle 15, con orario un po' flessibile, dipende sempre dalla fine del GR, dagli ospiti che abbiamo oggi in trasmissione, che sono parecchi. Tutte le informazioni comunque sulla scaletta le trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info. A voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sul sito della radio, sull'home page, ci ascolta la diretta. Un ospite in corsa, perché non era previsto in scaletta, ma con piacere lo ospitiamo per la puntata di oggi, Armando Leone del Film Studio di Roma, che sarà ospite in una serata organizzata alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma, sabato 4, giusto Armando? Intanto benvenuto. Giusto, alle ore 21. Benissimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, è un piacere averti con noi. Piacere anche mio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Armando, come è strutturata questa serata? Come è nata l'idea? Ma guarda, l'idea è nata intanto dai, diciamo, partita dalla Casa delle Donne, che hanno chiesto se potevano, ci faceva piacere di fare una serata dedicata al film studio. Allora, a parlare al film studio, sono 49 anni di attività, dico da che parte cominciamo. E allora abbiamo pensato che, come linea portante, insomma, della serata, più o meno darò l'idea come si organizza una rassegna, diciamo, dal momento del concepimento fino a quando arriva in sala, quali sono tutta la preparazione, come si struttura un programma, la divisione in sezioni, la scelta di film, eccetera. Tutto questo lo spiegherò a questo punto su due linee. La prima linea, intanto ho scelto di parlare della rassegna del 2002 sulla Nouvelle Vague, sì, che è un argomento poi che piace, diciamo, alla maggior parte dei cinefil, e quindi lo racconterò su due linee. Uno, tutta la rassegna concepita e fatta in pellicola, sì, e poi farò una nota come cambierebbero le cose se la si dovesse fare la stessa rassegna oggi. Al di là di questo, comunque, per non annoiare, accennerò a una serie di grandi rassegne nella storia del film studio. Farò vedere il primo programmino del 2 ottobre del 1967, che era di apertura una rassegna dedicata al cinema di Norman McLaren, il cinema d'animazione. Poi citerò, per esempio, grandi rassegne come le avanguardie storiche che arrivarono nel 68 a Roma per la prima volta, Film Studio, legate a Bernardo Bertolucci, sì, poi le prime di Andy Warhol negli anni 69-70 legate a Roberto Rossellini, poi ti spiego perché e per come, e poi per esempio Nanni Moretti, l'esordio di Nanni Moretti, come avvenne e come nacque un autore, non so, parleremo anche delle ultime rassegne del terzo millennio, come diciamo noi, che ne abbiamo fatte di tante, vastissime e importanti. Ecco, insomma, cercare di, come posso dire, fare un po' di racconto, un po' di storia, e poi magari dire come si fa, come ti dicevo prima, come si prepara una rassegna, arriva in sala, quali sono i problemi, i costi, le collaborazioni e via discorrendo, insomma. Oh, Armando, per chi ci ascolta, soprattutto le generazioni più giovani, il Film Studio è un cineclub, una sala storica per quanto riguarda il cinema qui a Roma, ma non solo. Ecco, volevo chiederti com'è ti do una notizia molto carina. Sì. Ieri stavo in sala perché era l'ultimo giorno che abbiamo programmato, adesso siamo andati in chiusura estiva, sì, e vedo arrivare una signora, entra, gira, si rigira, ci posso fare delle fotografie? Tu non so se c'hai presente l'ingresso, sì, sì, è un po' una mostra di locandine e via discorrendo, e poi mi si viene a presentare e mi dice: io sono l'ultima moglie di Glauber Rocha. Ora, per i giovani che non lo sapessero, Glauber Rocha è stato uno dei più grandi e più significativi autori del cinema nuovo brasiliano. Sì. Frequentava il film studio, oramai certo non c'è da moltissimi anni, però ecco, mi sono visto presentare questa signora che praticamente passando da Roma è venuta proprio specificamente a vedere il luogo dove, e gli ho fatto vedere che poi nell'82 io stesso ho dedicato una rassegna a Glauber Rocha. Ecco, questo è un aneddoto. un'amica, vabbè, una cosa che è successa certo. Senti Armando, ecco, ti dicevo per le giovani generazioni, e volevo chiederti anche qual è la situazione oggi per una sala come il Film Studio. Guarda, la situazione per una sala del Film Studio è molto molto difficile, perché tu, se guardi al panorama romano, diciamo, dei film club, i nuovi film club, chiamiamoli come vuoi, oggi come oggi, che tengono viva a Roma la cultura del cinema, si possono dividere in due categorie ben precise: i film club tra virgolette istituzionali, cioè quei film club o quei spazi che fanno cinema, dove praticamente c'è dietro un ente, non so, la Sala Trevi, Cineteca Nazionale, il Palazzo delle Esposizioni, il Comune di Roma, la Casa del Cinema, il Comune di Roma, il Maxi e il Comune di Roma. Ora, tutti questi spazi ovviamente hanno la copertura sia da un punto di vista gestionale, sia da un punto di vista di manutenzione, sia dal punto di vista della cosiddetta produzione artistica, cioè hanno i soldi o quantomeno hanno dei fondi per spenderli e produrre, non so, una rassegna, far venire un film dall'estero, pagare eventualmente un autore importante, eccetera, sì, eccetera. Sì. Poi ci sono degli spazi totalmente indipendenti, Film Studio ed altri, che si devono arrangiare da soli, sì. Si devono arrangiare, e quindi non solo, poi c'è una forma indiretta di concorrenza, però con questo non voglio aprire polemica, è una questione proprio di che questi spazi istituzionali tutti quanti fanno l'ingresso libero, cosa che uno spazio indipendente non se lo può assolutamente permettere. Certo. Ora, per un rispetto degli autori, di quello che si presenta, eccetera, il mio punto di vista sarebbe: fate un prezzo politico, e siamo d'accordissimo, ma fategli pagare 1,50 euro, cioè il prezzo di un biglietto dell'autobus. Perché questo significherebbe anche una scelta, perché molte persone, alcune, non lo so, specialmente alla Casa del Cinema, a volte vanno tutta una serie di persone che magari sono relativamente interessate a quello che si fa, però visto che è gratis, sì. Vabbè, è tutto un discorso diciamo che sta insomma a parte. Comunque la realtà è questa, la sì. Realtà è che gli spazi indipendenti chiaramente hanno mille difficoltà, e quindi devono fare uno una gestione spartana, due nel caso del Film Studio utilizzare tutto il mestiere possibile e immaginabile, in molti casi utilizzare anche tutti i contatti che uno ha accumulato in 50 anni, e con tutto ciò alla fine le dimissioni ci sono lo stesso, sì. Però finché ci si rimette una quota che quantomeno noi stessi possiamo in qualche modo coprire, tamponare, eccetera, quando poi se la remissione diventa una insopportabile, chiaramente si aprono dei problemi seri, sì. E quindi io dico sempre, un po' per scherzo, un po' per serio, Film Studio è una struttura che appare stabile ma che è stata eternamente instabile perché sono 49 anni di attività e non so come ci siamo riusciti ad arrivare, però sinceramente sono stati 49 anni e sono 49 anni di instabilità. Chi sempre guarda dall'esterno, in molti casi ci è capitato che viene confusa per una istituzione, cioè viene confusa come fosse un'istituzione che è lì ed è, come si dice, ferma, sicura, intoccabile, diciamo che non si sposta, e invece è tutto il contrario, cioè sì, che sì, dietro sì. C'è proprio una lotta di resistenza, di resistere per esistere, ecco. Oh, una curiosità, Armando, in chiusura, sul comunicato che mi è arrivato si fa riferimento anche all'enorme archivio del Film Studio. Ecco, che tipo di fruizione è pensabile per questo archivio? L'enorme archivio del Film Studio ultimamente è stato utilizzato perché, come sai, non so se lo sai, te lo dico, stiamo completando un documentario sulla storia del Film Studio, sì, per la regia di Tony D'Angelo. Adesso il documentario ormai è in fase di montaggio avanzato e speriamo di poterlo far uscire per l'autunno. Ora è chiaro che l'archivio già si è messo, inutile dirlo, al servizio di, certo, per realizzare questo lavoro, dove io stesso e Tony sono 2 anni e mezzo che lavoriamo su questo progetto. Per il resto l'archivio andrebbe, ci vorrebbero i fondi. L'ideale sarebbe digitalizzarlo tutto o ordinarlo e poi eventualmente, se si riuscisse a fare una cosa del genere, si potrebbe pure cioè renderlo anche una fruizione pubblica, per esempio per gli studiosi, sì, per chi fa ricerca. Ogni tanto ce lo chiedono, sì, ci chiedono delle cose, per esempio per le tesi di laurea. Noi ovviamente collaboriamo come possiamo, anzi molto spesso diamo di prima mano informazioni che possono essere utili, sì, e qualche volta andiamo a prendere dei pezzi qua e là, non so, delle pubblicazioni, dei vecchi programmi, sì, qualche cosa che possa servire per il lavoro degli studenti. E allora avremo modo di riparlarne sicuramente per la presentazione del documentario. A questo punto, Armando, ricordiamo l'appuntamento di sabato? Sì, allora alla Casa delle Donne al sabato alle ore 21. Benissimo. Allora un abbraccio e a presto. Un abbraccio anche da parte mia, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Armando. Ciao, grazie. Ciao. Armando Leone del Film Studio sulla serata alla Casa Internazionale delle Donne sabato 4 luglio. Eccoci con Fabiana De Bellis, regista del documentario L'Imperatore di Carta. Ne sono piuttosto contento di questo appuntamento perché Fabiana è un'amica e questa storia dell'Imperatore di Carta, che poi andando a scoprire si tratta della rivista Marco Aurelio, ne avevamo già parlato, ne avevo scritto per Liberazione in un articolo. Fabiana, intanto benvenuta in veste di documentarista a Visionari su Radio Nova. Grazie. Sì, ma tu sei stato il primo, tra l'altro, a parlare della mostra Marco Aurelio con quell'articolo, quindi insomma è bello fare questa cosa adesso con te. Sì. Allora, per chi ci ascolta, raccontaci un po' questa avventura, Fabiana. Allora, questa avventura di fare questo documentario nasce dal fatto che appunto mio nonno era il direttore di questa rivista, io avevo dei materiali, secondo me, belli e preziosi da mostrare e da raccontare, sì, quindi diciamo è nata come una grande ricerca di archivio e quindi nasce prima di tutto come mostra e poi successivamente come documentario, perché è stato possibile raccogliere anche le testimonianze di chi ha fatto parte della rivista Marco Aurelio. Sto parlando di Fellini, di Ettore Scola, che è stato uno tra gli ultimi a lavorare per questo giornale umoristico, e poi diciamo anche delle testimonianze di chi non ha fatto parte comunque della rivista ma ne era in qualche modo legato, come appunto Vanzina, figlio di Steno. E quindi è stato possibile un po' rivedere quella che era la storia di questa rivista, che dagli anni 30 agli anni 50 ha visto collaborare insieme in pratica tutto il cinema italiano, perché sì, poi tutti i redattori del Marco Aurelio si sono riversati in cinema. Allora, per le generazioni più giovani, che portata ha avuto, che tipo di fruizione ha avuto questa rivista, e poi se ha, visto che anche ha attraversato il periodo, il ventennio fascista, e problemi di censura in tal senso? Sì, beh, dunque, l'importanza è stata quella che spero appunto noi siamo riusciti a raccontare, in particolare io e Francesca Reggiani, che ci siamo occupati di questo lavoro di narrazione, e cioè è stata quella di avere gettato un po' le basi della commedia all'italiana, cioè sì. È all'interno del Marco Aurelio che sono nati dei personaggi che poi sono approdati al cinema, o che sono nate tutte le varie commedie di Totò, oppure anche i personaggi poi che hanno ispirato un po' tutti i caratteri della commedia all'italiana. Quindi diciamo sono nati tutti lì perché erano questi gli autori che poi sono arrivati a Cinecittà, quindi questa è l'importanza. Quindi se noi andiamo a vedere Totò, Macario, ma anche Alberto Sordi, senza appunto trascurare Fellini oppure Scola eccetera, sono tutti nati lì dentro, e lì dentro si sono confrontati, e da lì appunto dalle strisce satiriche poi sono nati i successivi film. E quindi questo sicuramente è stato il merito di questa rivista, che ha dato diciamo i natali a tutti questi registi e sceneggiatori. Sì, quindi questo sì, sicuramente sì. E poi ecco, la seconda domanda era rispetto al ventennio, se ha avuto problemi. Ah certo, beh, all'inizio ha avuto dei problemi con la censura, perché chiaramente, infatti il Marco Aurelio nasce come giornale umoristico e non satirico, anche se a tutti gli effetti faceva satira, proprio perché nasce sotto il fascismo, quindi era impossibile diciamo potersi definire giornale satirico in un momento in cui tutte le testate satiriche venivano fatte chiudere, e quindi ha avuto dei problemi. Non a caso a qualche numero dalla sua uscita è stato ripreso proprio dal partito per una massima che era stata pubblicata, e che diciamo era una massima che proveniva dai pensieri, dai ricordi del vero imperatore Marco Aurelio, ma che in realtà si riferiva al Duce in qualche modo, e quindi era una massima riferita alla critica di qualsiasi forma di tirannide. Quindi il Marco Aurelio nasce come giornale, anche se non dichiaratamente e palesemente antifascista. Poi invece negli anni 40 si allinea, e quindi abbiamo un volto completamente diverso del Marco Aurelio, che si allinea al regime, anche mantenendo alcune battute diciamo tra virgolette frondiste, ma soprattutto diventa un giornale che sancisce quello che viene definito un patto di acciaio umoristico dopo quello che era stato il patto di acciaio. Quindi si allinea, e poi chiaramente con la fine della guerra, con gli anni successivi, con gli anni 50, cambia nuovamente volto. Quindi è stato un giornale che ha avuto vari giri di valzer. Senti, la sua eredità è anche artistica, perché ci sono tavole, ci sono illustrazioni, ci sono quadri che rappresentano delle vere e proprie opere d'arte, e che hanno permesso tra l'altro a te di allestire la mostra. Sì, ci sono appunto dei bozzetti originali, delle tavole originali, che tra l'altro sono bellissime, di questi autori, e di questi autori intendo Guareschi, Fellini, Attalo, Barbara, che era questo disegnatore specializzato in donnine, in queste donnine che poi sono diventate un po' l'icona delle super maggiorate degli anni 50. E quindi sì, la mia eredità consiste soprattutto in questo, e quindi quello che era bello a mio avviso era proprio ricostruire la storia di questa redazione, e farlo attraverso una serie di immagini che in qualche modo raccontano tutto quello che è stato il percorso del Marco Aurelio. E qui chiaramente è stato anche di grande aiuto l'archivio Luce, che ha potuto consentire una ricostruzione storica che io invece raccontavo visivamente tramite appunto questi bozzetti, queste strisce. Sì. Senti Fabiana, tra l'altro a proposito delle illustrazioni e delle donne prosperose, gli ho dedicato proprio a una delle tavole la copertina della trasmissione di questa settimana. Volevo chiederti che tipo di fruizione avrà questo documentario. Ma dunque, adesso il documentario è approdato, è stato diciamo presentato in anteprima al Festival di Taormina, quindi questa è stata la sua nascita, quindi diciamo che è appena nato, perché è stato presentato neanche 2 settimane fa, quindi insomma è giovane, e crediamo che abbia una distribuzione un po' per festival, o sicuramente televisivamente parlando è un prodotto che potrebbe reggere. Quindi vediamo un attimino adesso come l'Istituto Luce deciderà di distribuirlo. Diciamo un format di 52 minuti, quindi si presta molto ad essere un prodotto televisivo, e poi chiaramente raccontando appunto questo aspetto di questo cinema italiano che molti non conoscono, molti magari ne hanno sentito un pochino parlare, perché poi soprattutto diciamo ha aperto a questo universo il film di Scola, che strano chiamarsi Federico, che è stato il primo film che ha parlato un po' della redazione del Marco Aurelio. Quindi noi crediamo che anche i festival possano accogliere bene questo prodotto, poi chiaramente lo speriamo, sì, speriamo che possa piacere. Senti, c'è in rete una pagina, un sito dedicato a questo lavoro? Dunque, sicuramente ci sono tutte le varie informazioni su sul profilo di Istituto Luce, anche su quello di Movie and Arts in Zero Six, che sono le altre due produzioni che hanno diciamo cooperato e prodotto questo lavoro. E quindi lì c'è certamente sia la presentazione che un trailer che appunto chiunque può andare a visionare. Benissimo. Fabiana, è stato un piacere, spero di risentirti presto. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio a te. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Fabiana De Bellis, regista del documentario L'imperatore di carta, dedicato alla rivista satirica Marco Aurelio. Oh, da una rivista passiamo ad un libro, perché siamo in collegamento con Christian Uva, autore del libro L'immagine politica, forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell'Italia degli anni 70. Christian, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, un titolo che mi interessava parecchio, abbiamo trovato il modo di parlarne. Christian, raccontaci un po', perché tra l'altro tu non è la prima volta che ti occupi dell'argomento. Sì, infatti, allora diciamo che con gli anni 70 un po' una questione personale, mettiamola così, quindi torno un po' ossessivamente a occuparmi di questo periodo storico, sempre però dalla prospettiva del cinema, delle immagini, degli audiovisivi, o se vogliamo dirla in questi termini, della cultura visuale. E questa volta appunto l'ho fatto dividendo il libro in tre parti, ognuna dedicata appunto ad uno specifico ambito mediatico. Quindi il cinema è il primo capitolo, il secondo capitolo è il video, e magari spiegherò meglio cosa intendo poi per video, e il terzo è la fotografia. Ed era un modo per poter cercare di come dire, restituire quel lato che forse per troppo tempo e ancora oggi è restato in ombra degli anni 70, ossia quel lato che riguarda naturalmente la sperimentazione, che riguarda la militanza. Io parlo proprio di contropotere sia nei termini strettamente ideologici e politici, ma anche in termini mediatici, quindi un contropotere rispetto a un sistema mediatico, no? Che in quegli anni, attraverso appunto il cinema e la tecnologia video che arriva in Italia proprio in quegli anni, si cerca di mettere in pratica. Mi sembra che quest'ambito sia l'ideale, nel senso questa radio è nata proprio sull'onda di quel movimento, ed era espressione proprio allontana dai mass media, quelli di massa, ecco. Esattamente, parliamo proprio di questo, di quello che all'epoca si definiva poi anche in termini di controinformazione, e che naturalmente è una parola ricorrente nel mio libro, ma che io appunto ho voluto un po' sintetizzare sotto questa parola, sotto questa etichetta di contropotere, perché gli anni 70 sono gli anni in cui il potere, il tema del potere naturalmente è assolutamente centrale anche nel dibattito culturale, il potere poliziesco, il potere dei media, il potere della politica, dell'economia, eccetera. E quindi raccontare invece come le immagini cercassero di opporre una resistenza in termini appunto di contropotere mi sembrava interessante. Naturalmente la parte dedicata al cinema, e naturalmente per cinema intendo in questo caso il cinema militante, l'esperienza del cinema militante, quella soprattutto a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, è quella più indagata e quella su cui già sì. è stato scritto anche autorevolmente, anche se lì poi andando un po' a caccia ho avuto modo di scoprire meglio alcune cose che meritavano appunto attenzione, ma secondo me l'aspetto particolarmente innovativo di quegli anni poi in particolare è proprio l'irruzione di questa nuova tecnologia che appunto era il video. All'epoca si parlava di questo portapack, no? Che era un sistema telecamera più videoregistratore pesantissimo, comunque scomodissimo, sì. eccetera. E era il senza chiedere permesso di Roberto Faenza, insomma, un famoso manuale scritto da Roberto Faenza che importava in Italia la Guerriglia Television. Ecco, quello secondo me è stata la grande anche speranza e utopia soltanto in parte realizzata, che oggi in parte forse il digitale soltanto in parte appunto ha realizzato anche in termini appunto di un contropotere, no? Sì. mediatico. E poi naturalmente c'è la fotografia, a cui tengo molto perché è un orizzonte che ha avuto una capacità di incidere nel cosiddetto immaginario collettivo molto di più del cinema militante o anche del video di cui parlavo prima. Pensiamo nel bene e nel male. Nel male pensiamo alle fotografie alle Polaroid delle Brigate Rosse o alle immagini scattate in Via de Amicis a Milano con il famoso autonomo con la pistola, ma nel bene penso alle immagini di Tano D'Amico. Sì. Ecco, proprio a questo proposito, a Tano D'Amico sono stati dedicati nell'arco dell'ultimo periodo un paio di documentari che abbiamo anche ospitato qui in trasmissione. Mi sembra una testimonianza che meritava tutta, insomma, un testimone eccezionale di quella stagione. Assolutamente sì, e ho avuto infatti il piacere di conoscerlo personalmente. Naturalmente lo conoscevo come attraverso i suoi scatti, ma ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente in occasione di questa ricerca. Ho visto almeno credo uno dei documentari di cui parli, molto molto interessante, molto meritevole, e dicevo per me il capitolo che ho dedicato a Tano D'Amico era essenziale perché serviva proprio per restituire dal punto di vista iconico, dal punto di vista proprio dell'immagine e di un'immagine forte o di una serie di immagini forti, la testimonianza appunto di un fotografo, lui si definisce, no, fotografo di strada, che però ha raccontato il lato migliore naturalmente sì, di sì. quegli anni, il lato migliore dei movimenti e anche quando ha messo in scena le pistole, cioè ha fissato delle pistole, penso alla famosa immagine di Dado e Paolo a Piazza Indipendenza a Roma nel febbraio appunto del 77, anche lì che è rimasta nascosta per lungo tempo, esatto. Lui l'ha tenuta nascosta, esatto, naturalmente sì, ovviamente per non creare problemi i diretti interessati, poi grazie al manifesto è uscita fuori circa 25 anni dopo, però quella è una risposta secondo me forte alla famosa immagine appunto dell'autonomo con la pistola di Via De Amicis, che ha in qualche modo fissato nella memoria collettiva gli anni 70 come anni di piombo. Ecco, no? Proprio su questo punto, Cristian, mi piaceva, perché hai parlato del contropotere dell'informazione altra, dell'uso dal basso delle tecnologie sì. e per fare informazione non solo, e poi un altro elemento interessante secondo me, ecco, gli anni 70 spesso e volentieri purtroppo vengono ricordati come anni di piombo, però sono anche gli anni dell'esplosione dell'immaginario. Certamente, guarda, io ecco proprio per questo dicevo ho deciso di tornare su questa stagione proprio perché in passato io mi ero occupato effettivamente di come il cinema ufficiale, il cinema che usciva in sala e che esce in sala, avesse raccontato questa stagione, in particolare parlando di lotta armata, parlando di terrorismo. E di fatto il cinema che ha rappresentato questa stagione in qualche modo ha finito per schiacciarla esattamente su quest'immagine, cioè quella degli anni di piombo. Invece queste immagini, di cui appunto in parte si sa meno o che sono comunque conosciute forse maggiormente da nicchie, penso alle immagini di un altro grande maestro come Alberto Grifi, sì, no? A proposito sì. di video, ecco, penso ad Anna, penso a Parco Lambro, penso a Lia, eccetera. Ecco, quelle sono immagini che insieme a quelle di D'Amico prima menzionate e ad altre hanno cercato proprio di in qualche modo combattere contro quell'immagine codificata degli anni 70 appunto come anni di piombo, e il loro contropotere era esattamente questo dal punto di vista proprio di un'azione politica sull'immaginario. Christian, hai cominciato a presentare il tuo libro, volevo chiederti tanto se in rete ci sono luoghi, delle pagine dedicate a questo e, all'informazione per quanto riguarda chi volesse saperne di più. Allora sì, intanto sicuramente sul sito della casa editrice che è Mimesis ci sono tutte le informazioni anche sulle prossime presentazioni, ma mi fa piacere anche ricordare che perlomeno sulla mia pagina di Accademia è possibile scaricare un estratto proprio del libro, ed è esattamente il capitolo che ho dedicato a Tano D'Amico, che era stato anche precedentemente pubblicato dal sito del Lavoro Culturale, quindi è possibile scaricarlo. Benissimo. Christian, allora io spero di risentirti presto per le novità, e un abbraccio e alla prossima. Benissimo, alla prossima e grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Christian Uva, autore del libro L'immagine politica, forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell'Italia degli anni 70. Ritroviamo il nostro amico documentarista Carlo Lo Giudice per parlare di un suo nuovo lavoro, Lo Stato Brado. Carlo, ben ritrovato. Ciao Federico. Ciao. Ciao a tutti. Allora, mi hai segnalato questo tuo lavoro, parliamone un po'. Sì, si tratta di un documentario che ho finito all'inizio di quest'anno, che ha già partecipato al Festival di Vision Durel, adesso è al Festival di Genova, proprio, proprio oggi c'è la seconda proiezione. E niente, è un documentario che parla di un uomo che vive sotto sfratto sullo sfondo di una città che è, diciamo, è ferita, una città che vive di continui alti e bassi, di una città dove, diciamo, l'interesse privato vince sempre sui diritti della collettività, per cui, diciamo, il film fondamentalmente racconta questa polarità, questa differenza, questa forza, questa, diciamo, confronto tra la vita di quest'uomo in un certo senso tra virgolette condizionata dal contesto urbano in cui vive. La città è Catania, ma potrebbe essere qualunque altra città del mondo, perché, diciamo, io parto spesso da situazioni anche che conosco bene, perché Catania è la città da cui, diciamo, dove vivo in parte e diciamo che mi appartiene profondamente, e è una città dalla quale in qualche modo cerco sempre di scappare, ma poi mi ci ritrovo perché, diciamo, il mio immaginario è legato qua, e quindi questo film in qualche modo è diciamo una sorta di grido di dolore su questa città, sulla mia città, che è una città continuamente, diciamo, ferita, trattata nel peggiore dei modi, una città che ha grandi, enormi difficoltà, una città praticamente in continua, diciamo, disperazione, potremmo definirla. Per cui, diciamo, l'idea era questa del film, cioè di partire in un certo senso trasgredendo una delle mie regole fondamentali, che è quella di, diciamo, di trasformare le energie, diciamo, negative, cioè le energie di rabbia. Però in questo caso non ho potuto fare altrimenti, perché ritrovandomi, diciamo, a osservare la città dal mio punto di vista, diciamo, la sensazione che avevo netta era quella di questa città che in un certo senso distrugge i suoi figli più deboli. Ecco, proprio... ho deciso di seguire questo protagonista per diversi anni, siamo stati vicini e ho seguito tutte le sue vicende, così come lavoro io, che diciamo la storia la scrivo mentre giro nel tempo. E poi è uscito fuori questo, diciamo, questa che lui è stato sfrattato, quindi a seguito di questo accadimento reale ho seguito, diciamo, la sua storia. Lo stato brado fa riferimento al suo tipo di esistenza, alla sua personalità, immagino. Sì, ma niente di giudicante, non nel senso di stato brado, nel senso che vive allo stato brado, è un, diciamo, un titolo che in un certo senso mi suonava, perché è, diciamo, lo stato nel senso della condizione a cui diciamo certe persone, ma non soltanto certe persone, ma diciamo di strati sociali in difficoltà, ma anche spesso la borghesia da un punto di vista intellettuale in questa città si trova. È uno stato brado anche mentale, non soltanto, ma è lo stato anche con la S maiuscola, perché in fondo è lo stato che abbandona la città, quindi è, diciamo, una situazione, ecco, mi piaceva, poi diciamo da un punto di vista proprio sonoro ci stava, perché è un appunto una condizione alla quale siamo obbligati oggi molte persone, nostro malgrado, per cui dobbiamo per forza vivere come dei cacciatori raccoglitori, no? Cioè viverci, alzarci la mattina, cercare di trovare di fare il possibile, ma anche, diciamo, a livelli anche alti economici, alla fine che cosa si sta facendo? Non si sta raschiando il barile, no? Quindi si trova, diciamo, una condizione di, appunto, uno stato, appunto, che a me ricorda molto una condizione primitiva, senza giudizio di che cosa sia questa condizione primitiva, ma sicuramente la percezione che ho della città è questa, quindi fondamentalmente è un requiem per me. Diciamo, per cui questa cosa certi versi mi addolora, per altri versi però trovo che sia una condizione, diciamo, oggettiva della città, che ho cercato di raccontare cercando di analizzare che cosa è la geografia della città e in che modo questa geografia si ripercuote e condiziona e diciamo si mette in relazione con le persone che ci vivono. Sì. Ecco, mi dicevi durante questo intervento tuo malgrado, perché insomma ti piace anche parlare di questa rabbia portata a un livello costruttivo e positivo. In questo senso ti chiedo se in una città devastata come la tua ci sono comunque dei segnali in controtendenza, che ne so, forme di solidarietà, forme di aggregazione che cerchiamo di superare queste difficoltà. Assolutamente, ci sono migliaia di cose positive, nel senso ci sono moltissime persone che si impegnano al massimo con enorme passione, ci sono segni di movimento rispetto a una, diciamo, a una ripresa della città da un punto di vista, diciamo, anche legale. Ci sono anche a livello del tribunale, stanno succedendo delle cose, ci sono movimenti civili, ci sono movimenti artisti, è sempre stata una città, ma il punto non è questo, cioè il punto è che queste situazioni per certi versi, cioè è sempre stata una città piena di diciamo di forme diverse, di ribellioni, di forme di civiltà. Il problema è che il sistema città annulla, cioè distrugge queste, per cui il punto è proprio questo, cioè la partenza, le energie ci sono, ma queste energie vengono convogliate in maniera sbagliata, si cerca di fare rete, ma queste reti poi alla fine sempre succede qualcosa, perché è il sistema strutturale di base che ha degli enormi problemi, e quindi è come se le energie vengono, tra virgolette, risucchiate dalla città. E questo è un problema, perché, diciamo, ci sono dei veri e propri atti di eroismo in città, persone eccezionali, ma il problema è che si scontrano con un muro di assoluta, diciamo, è proprio il meccanismo che è marcio. E quindi va, in un certo senso, va trovata una chiave proprio di questo, cioè di trovare un modo diverso di apportare approcciare, che fondamentalmente è uno stato mentale. Ma il punto è questo, che il film parla invece di chi non ha gli strumenti per affrontare queste cose e paga sempre il prezzo più alto. Questo è poi alla fine il film, no? Sì. Ecco, a questo proposito, Carlo, per chi volesse saperne di più, avere informazioni su internet, c'è qualcosa? Sì, assolutamente, c'è un sito, lostatobrado.com, e c'è una pagina Facebook dove è molto nutrita, dove ci sono informazioni, c'è tutto, e aspetto di organizzare anche delle altre proiezioni e risultati dei festival, come sempre si fa con i film diciamo indipendenti. Bene, allora magari avremo modo di riparlarne, Carlo. Spero. Io ti abbraccio, ti ringrazio e alla prossima. Grazie Federico. Ciao. Un abbraccio, ciao. Carlo Lo Giudice, regista del documentario Lo Stato Brado, che come abbiamo sentito sarà oggi al Genova Film Festival. Bene, siamo in collegamento con Luca Zingaretti, direttore della prima edizione del Pesaro Doc Fest. Hai visto mai dal 3 al 5 luglio. Luca, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi dell'ospitalità. Tra l'altro è la prima volta che ci sentiamo, non so se tu eri a conoscenza, questa è una delle prime radio storiche libere di questo paese, del 77, Radio Onda Rossa. Guarda, io sono un ragazzo del 77, perché sono del 61, nel 77 stavo in piazza, per cui essendo un liceale, quindi figurati se non vi conosco. Benissimo. Senti Luca, questa passione per il documentario che ti ha portato a essere direttore di questa prima edizione del Pesaro Doc Fest, raccontaci un po'. Sì, guarda, io mi sono innamorato del genere del documentario facendone uno come regista. Nel 2003 sono andato a Gulu, che è una regione dell'Uganda, nel nord dell'Uganda, a fare un documentario sulla guerra civile che imperversava in quei posti, e mi sono reso conto della grande delle grandi potenzialità che ha questo genere, che in Italia è un po' bistrattato, ma all'estero è un po' un genere che ha una dignità uguale a quella del cinema di fiction. Quindi credo che oggi come oggi il documentario, col documentario almeno, ci si possa riappropriare di quel momento di riflessione e di verifica delle fonti che la vita, che va sempre più veloce, un po' c'ha negato, no? Sì. Noi sappiamo, siamo bombardati da notizie, siamo in qualunque momento, in tanti modi, internet, la televisione, i giornali, le radio, cioè quasi in tempo reale, però la nostra conoscenza di quel fenomeno là si ferma lì. Invece secondo me il documentario appunto in qualche modo ci permette di riappropriarci di questo momento di approfondimento di una storia, di un argomento, di un posto, di un luogo, permette di raccontarlo come quel posto o quel luogo o quell'argomento merita. Sì. Tra l'altro sfondi una porta aperta, perché questa trasmissione spesso e volentieri si occupa proprio nello specifico del documentario, che comunque in Italia negli ultimi anni sta assumendo un ruolo sempre più importante. Luca, volevo chiederti, ecco, rispetto alla selezione di questa prima edizione, su quali temi avete puntato? Guarda, io l'unico paletto che ho messo è che volevo che fossero dei documentari di tema sociale, inteso ovviamente in senso alto. Poi ho detto alla giuria che esaminava gli oltre 200 documentari che sono arrivati e che poi insomma mi hanno portato una rosa di 20, da cui scegliere 10 finali, gli ho detto: scegliete solo delle cose che vi colpiscono per qualche motivo, o perché racconto di un qualcosa che non conoscevate, o perché vanno scaldato il cuore, o perché vanno interessato. Ecco, quella è l'unica discriminante, perché poi noi dobbiamo portare a della gente, dobbiamo convincerli a venire a vedere i documentari proprio per lo stesso motivo che hanno, per cui quel documentario ha colpito la vostra immaginazione, il vostro cuore, il vostro cervello. Sì. Senti, le opere presentate quante sono? Guarda, sono... Noi alla segreteria organizzativa sono arrivati circa 200 documentari, i finalisti sono 10, 5 corti, diciamo non più lunghi di 20 minuti, e 5 invece di una durata normale, cioè 90 minuti, e alcuni italiani, alcuni stranieri, perché noi il bando l'abbiamo fatto internazionale. Oh, se non sbaglio, comunque questa è la prima edizione del Pesaro Dog Fest, ma l'associazione hai visto mai in altre città, se non sbaglio, si è occupata sempre di rassegne documentarie? Sì, sì, noi, io diciamo che questa iniziativa l'ho portata un po' in giro per circa 10 anni, insomma, sì. Nel senso che abbiamo fatto molta esperienza. Quest'anno, visto e considerato che il territorio che ci ospita, Pesaro, è un territorio particolare, per non solo per accoglienza, ma anche proprio perché è una città che ancora ha un tessuto sociale integro, intatto, sì. Abbiamo un po' aggiustato il tiro, abbiamo anche creato, oltre ai documentari, anche una serie di eventi speciali, particolari, come incontri letterari, incontri con il pubblico di giornalisti, di documentaristi che vengono a spiegare particolarmente, diciamo, nella loro particolarità e il loro settore. Diciamo che abbiamo scelto due temi fondamentali: uno è l'alimentazione, anche perché questo è l'anno dell'alimentazione con Expo 2015, sì. E l'altro è il terrorismo, che abbiamo scelto un anno fa e che, ahimè, è diventato uno dei temi di punta. Quello che, almeno per questo secondo aspetto, quello del terrorismo, quello che noi vorremmo fare con i nostri ospiti è spiegare che cosa sta succedendo, perché noi anche lì, io non so quanti di noi possano commentare quello che sentono sui telegiornali, a parte l'orrore, nessuno capisce che cos'è questo ISIS, chi sono queste persone che lo compongono, che cosa vogliono, perché agiscono in un certo modo. Noi cercheremo con i nostri ospiti e con il supporto anche di audiovisivi di spiegare questo, insomma. Il dibattito si verterà su queste cose qua, mentre invece per l'alimentazione lo affrontiamo il tema da un punto di vista di dove sta andando il pianeta nel tentativo di alimentare tutti i suoi abitanti. È un'alimentazione possibile, un'alimentazione più giusta nei confronti di tutti e nei confronti anche delle risorse del pianeta, è possibile? Senti, ecco, proprio in questo senso hai citato gli incontri che avete con gli ospiti, come è strutturata la giornata tipo del festival? Ma guarda, il festival si articola sostanzialmente su 4 luoghi, tutti ovviamente vicini al centro di Pesaro, che sono appunto la piazza Piazza Mosca, che è davanti ai musei civici stessi, e poi il cortile di un palazzo patrizio che c'è stato aperto cortesemente dal sindaco, e poi la piazza, diciamo, più grande. E a seconda, se insomma, un evento letterario lo faremo in una corte nella corte di Palazzo Mosca, mentre invece magari eventi che prevediamo essere, insomma, che saranno più seguiti da un numero più alto di persone, li facciamo invece in piazza. Però mi piaceva questa possibilità di seguire più eventi, avere la possibilità di scegliere quale evento seguire tra i tanti programmati anche nello stesso orario. Senti, una fruttuosa tendenza ultimamente per quanto riguarda i festival, penso soprattutto a quelli in provincia, magari al sud, è quella di farli vivere durante tutto l'anno. Ecco, in questo senso vi state muovendo? Ma guarda, senti, poi come tu sai, tutto dipende un po' dalla risposta che dà il territorio. Certo. Questa è la prima edizione che facciamo qua, le idee sono tante, stiamo anche cercando di capire quali potrebbero essere le risorse da reperire, però insomma è ovvio, come dici tu, che ha poco senso fare un festival quei 3, 4, 5 certo, giorni l'anno, certo. Se poi non investi su quel territorio là un lavoro che deve durare tutto l'anno. Siamo stati confortati dall'appello che abbiamo lanciato alle scuole di Pesaro, perché ci hanno risposto. Noi abbiamo 60 volontari che vengono dalle scuole superiori e li abbiamo divisi in giuria, li abbiamo divisi in reporter che gireranno le sale e i luoghi del festival, e anche tra gente che invece, tra ragazzi che ci daranno una mano proprio come volontari dello staff. Questo mi lascia veramente ben sperare, perché il trade union tra il festival e la popolazione potrebbe essere proprio questi ragazzi, no? Sì. Con cui poi inventarsi durante l'anno, certo, un lavoro. Certo. Senti Luca, in chiusura diamo i riferimenti internet per la programmazione? Sì, allora guarda, www.pesarodogfestival.it festival.it oppure www.hai visto mai.it. Benissimo. Bene, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie a voi dell'ospitalità e in bocca al lupo anche a voi. Ciao, a presto. Ciao Luca. Ciao. Luca Zingaretti, direttore della prima edizione del Pesaro Doc Fest Hai Visto Mai, dal 3 al 5 luglio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta e le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci come ogni anno a parlare dell'isola del cinema, Isola Tiberina qui a Roma, una lunghissima rassegna di quasi 3 mesi, dal 18 giugno al 6 settembre, 21esima edizione. Ne parliamo con il direttore Giorgio Ginori. Ben ritrovato Giorgio. Salve, una gioia ritrovare anche voi. Allora, raccontaci un po' le caratteristiche di quest'anno. Le caratteristiche di quest'anno ruotano intorno a una parola sintesi che è lumière, come il lumière. Questo è il sottotitolo dell'edizione di quest'anno, per almeno 3 motivi. Uno, perché dentro il filone, quello classico consolidato del cinema italiano di paesi da ogni parte del mondo, però quest'anno abbiamo guardato verso la Francia, perché lì 120 anni fa i fratelli Lumière, il 28 dicembre del 1895, proiettavano i loro primi film, vi ricordate, gli operai che escono dalla fabbrica, il treno che fa scappare dalla paura e dall'emozione. Ebbene, sono 120 anni e noi abbiamo voluto ricordarli, anche perché i fratelli Lumière, che avevano nel nome, si potrebbe dire, avevano nel nome un destino, no? La luce, i fratelli luce. In fondo il cinema è tante cose, ma è prima di tutto quel fascio di luce che colpisce lo schermo. Ebbene, noi quest'anno sappiamo che sono anche le celebrazioni fatte dall'UNESCO. L'UNESCO tra l'altro ha dato a noi anche il patrocinio sull'isola del cinema. Insomma, l'UNESCO ha dichiarato il 2015 l'anno della luce. Allora, mettendo insieme l'Ile Lumière con i fratelli Lumière, con la Ville Lumière, che come sapete è Parigi, quest'anno abbiamo fatto un focus particolare sulla Francia, gemellando l'isola Tiberina con l'Ile de la Cité, che tra l'altro è il primo di un gemellaggio con altre isole d'Europa, e in questo momento sta in viaggio, tra mezz'ora sarà a Fiumicino, Fanny Ardant, che è stata da noi contattata e scelta sia come madrina di questa Ile Lumière, e questa sera ci sarà una fantastica serata totalmente gratuita con lei che taglierà il nastro, con Ettore Scola che sarà lì, perché poi proiettiamo all'interno di questo scambio Italia-Francia anche un film emblema che è La Famiglia, e quindi il grande maestro Ettore Scola starà lì, e sarà quindi una serata di scambio culturale e di amicizia fra l'Italia e la Francia, per celebrare la nostra Ile Lumière. Giorgio, quasi 3 mesi di programmazione, più o meno quante sono le opere che proponete? Beh, le opere che proponiamo sono sempre tante, sono 200 film, sì. E all'interno di questi 200 film ci sono una quindicina di inediti italiani e altrettanti di inediti da ogni parte del mondo. E poi ci sarà quest'anno, sempre sulla scia di questa Ile Lumière, di questi fratelli Lumière, un'operazione molto particolare che si chiama Cinema Inventato, ed è un film collettivo con registi come Valerio Mastrandrea, Claudio Noce, Paola Randi, Aureliana Madei, Claudio Giovannesi, Eleonora Danco, Libero di Rienzo, Alessandro Haber, che si è entusiasmato e farà anche lui un film di regia. Alessandro aveva già fatto Scacco Pazzo come regista. Insomma, tutti questi autori italiani, questi giovani leoni del cinema italiano, si sono entusiasmati all'idea di fare un film collettivo che l'Isola del Cinema produrrà, però girando alla maniera dei fratelli Lumière. È quasi un paradosso. Nel momento in cui la pellicola è diventato quasi un reperto archeologico, abbiamo trovato un entusiasmo grandissimo da parte di questi autori per girare un po' con la magia, con lo stato di grazia degli albori del cinema. E quindi avranno una 16 mm, avranno pellicola 400 ASA 16 mm, gli diamo tutto quello che è necessario per fare un omaggio ai fratelli Lumière in pellicola, girando però come giravano i fratelli Lumière, che tecnicamente si dice montato in macchina. E poi proietteremo questo film collettivo al Maxi il 28 di dicembre del 2015, a ricordare quel 28 dicembre di 120 anni fa. Giorgio, per tutti i riferimenti, la programmazione, gli estremi internet quali sono? www.isoladelcinema.com, dove voi trovate la programmazione, alcuni capitoli, e poi se volete approfondire alcuni momenti di questa nostra edizione c'è anche il catalogo. Abbiamo messo online anche il catalogo dove vari protagonisti, non so, in questo momento sto pensando a Roberto Cicutto, che ha messo a disposizione proprio l'enorme patrimonio del Luce, sto pensando a Mario Sesti, che stasera avrà questo incontro, stasera l'incontro con Fanny Ardant si chiama Il mio amore per il cinema italiano ed è condotto da Mario Sesti, che a nome della Fondazione Cinema per Roma ha iniziato con l'Isola del Cinema una collaborazione. Quindi noi siamo molto felici di avere come compagni di viaggio l'Istituto Luce, Cinecittà, la Fondazione Cinema per Roma, perché vogliamo migliorare sempre di più, anche perché, visto che abbiamo 20 anni, a questo punto siamo costretti a migliorare sempre di più. Giorgio, allora un in bocca al lupo e ci sentiamo presto. Presto, presto, grazie di cuore, vi aspettiamo, ripeto, serata gratuita alle 21. Fanny Ardant sarà sul palco a parlare del suo amore per il cinema italiano. Un abbraccio e a presto. Ciao Giorgio. Grazie, a presto, prestissimo, grazie a voi. Giorgio Ginori, direttore della 21esima edizione dell'Isola del Cinema, Isola Tiberina, qui a Roma dal 18 giugno fino al 6 settembre. Eccoci con Guido Silvestri, ideatore di Fluk, una storytelling transmediale interattivo, per parlarci della campagna di crowdfunding proprio per finanziarlo. Guido, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Federico, buongiorno a te e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, mi interessava questo nuovo esperimento. Fluk è nato da una tua idea. Di cosa si tratta, Guido? Il Fluk è una maniera assolutamente nuova per tutti noi lettori di vivere le storie. In estrema sintesi, sono storie scritte da autori affermati o emergenti, sono storie multimediali che ognuno di noi può personalizzare con i propri contenuti, cioè le proprie foto, i propri video, persino i testi, fino ad ottenere poi una versione assolutamente personale della storia del grande autore, alla quale solo noi potremo accedere come fosse un diario personale, o che potremo condividere ma con una sola persona che ci sta a cuore, sia il nostro migliore amico, il nostro amore, il nostro padre. Ma prima ancora di dire proprio come funziona il Fluk, mi piacerebbe raccontare un po' cosa c'è sotto e come è nata, diciamo, questa idea. Certo. Se me lo consenti. Il Fluk intanto nasce da un'amicizia. Io e Federico Moccia, che è l'autore che probabilmente molti conoscono, I tre mesi sopra il cielo e di altri successi, siamo amici dai tempi della scuola, e anche se abbiamo fatto mestieri diversi, siamo in realtà appassionati di grandi storie da sempre, e delle emozioni che si provano quando ci si immerge nelle grandi storie. Io penso che è capitato a ciascuno di noi, quando trova la magia di una grande storia, sia in un libro sia in un film, di isolarsi, di immedesimarsi nelle grandi storie, di chiudersi in una stanza e non uscirne finché non si è finito il libro. E quando si finisce una grande storia, si sente di aver attraversato questa storia quasi come un viaggio, di essere usciti diversi da questa storia. No, a me questo a volte è successo ed è un grande privilegio. Ogni volta che è successo ho subito voluto condividere questa storia con il mio miglior amico o con la mia ragazza, come fosse un diario. Io adesso, se torno indietro, mi è successo sicuramente col Piccolo Principe, mi è successo con Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta e con altri libri, ognuno c'ha i suoi. Ecco, un giorno di 2 anni fa, da un'intuizione in realtà di Federico Moccia, abbiamo pensato che le nuove tecnologie ci danno la possibilità di immaginare un modo di vivere le storie in cui queste emozioni, alle quali diciamo, eravamo tanto legati, potessero essere amplificate. E quindi è venuta fuori un'idea in cui nel Fluk la storia è narrata intanto da un autore, il primo è Federico Moccia, ma altri ne seguiranno. La storia è multimediale e digitale, e cioè l'autore la racconta con i linguaggi che preferisce, non è più legato a scegliere se fare un video, se fare un film o se fare un testo, ma può scegliere i linguaggi che preferisce. E infatti il primo Fluk di Federico utilizza tutti i linguaggi espressivi, ci sono video, c'è musica, c'è testo, e di questo primo Fluk ne possiamo anche parlare un po' meglio dopo. Su questa storia ogni singolo lettore può personalizzarla fornendo propri contenuti, cioè il Fluk chiede a ciascuno di noi di fornire fotografie, video, musica, testi, tutte quelle cose che ormai noi siamo soliti, diciamo, produrre nel corso delle nostre giornate. Tutti noi facciamo selfie, facciamo fotografie, abbiamo il desiderio di fermare le nostre emozioni in qualche maniera, in video, in cose che possiamo poi mantenere la nostra memoria. In forte sintesi, si tratta di una mescolanza di due creatività, praticamente. Esattamente, e innestato, diciamo, sulla capacità poi degli autori di raccontare le storie. E quindi questo contenuto che viene fornito, se vuole, dal lettore, poi il lettore a quel punto non deve fare più nulla, perché la piattaforma prende questi contenuti e li inserisce in alcuni luoghi della storia, per cui quando il lettore alla fine apre la propria storia e la può godere su smartphone, su tablet, su PC, andando attraverso la storia, nei momenti di massima emozione, di massimo coinvolgimento, ritroverà i contenuti che lui stesso ha fornito. Se immaginiamo che adesso, per parlare di temi cari a Moccia e quindi dei sentimenti, ognuno di noi si è innamorato magari al suono di una canzone, oppure riesce, associa il momento del proprio amore a una canzone, a un luogo particolare, ecco, ciascuno di noi avrà la possibilità di personalizzare la storia con la propria musica o con la fotografia del proprio luogo, che gli rimane indelebile nella memoria. E tutto questo la piattaforma lo integra in maniera assolutamente lineare nella storia del grande autore. Senti, a questo punto, Guido, ci dai riferimenti per saperne di più? Dunque, noi abbiamo, diciamo, lanciato come primo elemento di test di questo prodotto una campagna crowdfunding su www.eppela.com/fluk. Questa è una piattaforma di crowdfunding, la più avanzata in Italia. A noi il crowdfunding piace moltissimo, perché non ci serve solo per raccogliere fondi, ma soprattutto per coinvolgere le persone nello sviluppo di quest'opera. Quindi noi chiederemo suggerimenti, chiederemo che ci diano dei feedback per svilupparla insieme a loro. Quindi invito tutti quanti ad andare su www.eppela.com/fluk, dove potranno preordinare il primo Fluk di Federico Moccia. E quindi ci sono il telefono. sì. Tutte le informazioni si trovano. Assolutamente. Bene. Guido, io ti ringrazio, un abbraccio e a sentirci poi prossimamente per le novità. Grazie, grazie del supporto. Ciao Guido, ciao. Guido Silvestri, ideatore di Fluk, una storytelling transmediale interattivo per la campagna di crowdfunding che è stata lanciata. Parliamo ora di Festival Mix Milano, di cinema gay, lesbico and queer culture, 29esima edizione a Milano dal 3 al 6 luglio. Ne parliamo con il direttore Giampaolo Marzi. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Giampaolo. Buongiorno. 29 edizioni, comincia a essere parecchie. Cominciano a essere tante. Questa tra l'altro è la 10ª edizione al Piccolo Teatro Streller, per cui si accavallano anche gli anniversari oltre ovviamente all'età avanzata dell'evento, ed è un'occasione per rinnovarsi, credo, fondamentalmente. Senti Giampaolo, quest'anno che caratteristiche avrà il festival? Abbiamo rimesso al centro la programmazione di cinema. Da festival multidisciplinare quale è stato negli ultimi 5-6 anni, il mandato primario della programmazione di film è diventato il focus, diciamo, di rinnovo del mandato di riscrittura del fare festival insieme, in un momento in cui anche andare al cinema e frequentare insieme la programmazione delle sale di cinema è una pratica che è affaticata, quindi riscoprendo la dimensione dello stare insieme, del vedere i film insieme, quindi della communal spectatorship, che è un'occasione straordinaria per condividere le storie e per riflettere, soprattutto uno strumento pazzesco di costruzione di pensiero critico. Senti, lo stato delle cose, visto che comunque immagino che le opere vengano un po' da tutto il mondo, della cultura gay, lesbica e queer. Il livello di produzione qualitativamente è chiaramente cresciuto, è in crescita anche, ma questo già da alcuni anni, è legato sia all'accesso facilitato dalle tecnologie digitali, sia di ripresa che di post-produzione. Questo ormai da una decina d'anni ha reso più facile la possibilità di produrre film a tema, siano questi documentari o film di fiction. Contemporaneamente è esplosa un grande interesse da parte della televisione, soprattutto dei canali televisivi di fiction, HBO, insomma i grandi canali di produzione televisiva di fiction americani o anglosassoni, e quindi la rappresentazione dell'omosessualità sicuramente ha vissuto una sovraesposizione rispetto alla non esposizione che cui eravamo abituati. Questo non significa che il racconto delle storie, la diversità e le sfumature dell'essere omosessuali siano comunque esauriti dalla rappresentazione dell'identità attraverso le storie, diciamo, accessibili a tutti. Sì. Contemporaneamente gli strumenti di produzione, grazie al crowdfunding, ai meccanismi di produzione dal basso, hanno facilitato e facilitano e hanno rigenerato l'autonomia e l'indipendenza di piccoli produttori che si cimentano o nella storia del cortometraggio, che è più fruibile e più facilmente gestibile nella distribuzione online, o addirittura nelle storie di documentari che non hanno un taglio necessariamente di reportage televisivo, ma che vanno a incidere nel racconto della storia del locale, delle realtà, delle comunità locali. Come cito ad esempio il film di Maria Arena, Gesù è morto per i peccati degli altri, che racconta una storia tutta siciliana, una storia italiana tutta siciliana, che sicuramente non sarebbe accaduta se non attraverso meccanismi di produzione dal basso e se non attraverso l'accesso a tecnologie digitali che ne hanno facilitato la realizzazione. Tra l'altro a Catania, perché poco fa abbiamo parlato proprio sempre di Catania per un altro documentario. Senti Giampaolo, questo a livello autoriale, però più in generale sulla questione diritti? Ma allora, sulla questione dei diritti va avanti chiaramente, dopo l'eclatante sentenza della Corte Costituzionale americana, va avanti un cambiamento che credo sia epocale, che è quello del riconoscimento di uguali diritti per tutti, e quindi diciamo ogni realtà, compreso il cinema, e ogni dimensione organizzata che negli anni, negli ultimi 20-30 anni si è battuta e ha contribuito a costruire il percorso che ci ha portato ad oggi è stato indispensabile. Quindi sulla questione dei diritti diciamo che il cinema ha dato tanto, ed oggi forse non è più un argomento così centrale, perché racconta storie più intime, personali, di comunità sconosciute, o comunque sfumature dell'essere, dell'innamorarsi, del coming out, delle famiglie, delle nuove dinamiche di famiglie, delle nuove relazioni, dove si dà per scontato una piattaforma di diritti condivisa, cosa che penso, immagino, auspichiamo tutti accadrà a breve anche in Italia. Giampaolo, quanti i film presentati in questa edizione? Abbiamo ridotto diciamo, prima un po' è stato un anno zero rispetto anche alle scelte di programmazione, per cui le nostre parole chiave sono state semplificare, scegliere la qualità e dare voce e spazio al cinema indipendente di fiction trasversale. Quindi sono 15 lungometraggi, abbiamo alcune anteprime eclatanti, tra cui Elephant Song, film canadese in cui il ribelle Xavier Dolan si cimenta in un ruolo attorale diretto da un regista canadese. Abbiamo un film argentino che è un esordio meraviglioso, dove si uniscono i linguaggi di Gus Van Sant, di Bruce LaBruce e di Greg Araki in un racconto on the road che rimette al centro le storie d'amore, d'amicizia e di sesso. In questo senso appunto il cinema diventa uno specchio della realtà non necessariamente televisivo, e questa forse resta la grande forza del cinema come occasione di racconto privo di censure, privo di autocensure, che sono spesso pericolose, a volte sono interiorizzate e diventano un grande limite nel racconto del reale. Giampaolo, in chiusura volevo chiederti anche rispetto ai luoghi di provenienza, quali sono le aree geografiche più vivaci da questo punto di vista? Un grande fermento dei paesi del continente sudamericano, ovviamente i paesi anglosassoni e nordeuropei sono da sempre protagonisti, la Francia con Metamorfosi di Honoré, film che si è visto peraltro a Venezia, ribadisce lo stile e la grande capacità creativa e artigianale del cinema francese. L'Italia quest'anno ha vissuto un piccolo rinascimento del documentario, e qui ci sarà un focus con 4 diversi aspetti e poi il movimento, della storia del movimento di liberazione degli ultimi 30 anni. Direi che anche paesi come le Filippine, perché abbiamo con un film argentino, c'è una grande attenzione il tema, o perché legato alle questioni politiche di rivendicazione dei diritti, o perché ormai nella dimensione di emancipazione è un fatto di quotidiana e di ordinaria amministrazione, credo che difficilmente, a parte alcuni paesi asiatici, c'è solo l'imbarazzo della scelta, ecco, diventa un'esclusione fondata su temi qualitativi, scelte estetiche, personali e soggettive, ma il racconto della sessualità, dell'omosessualità e delle questioni legate all'identità di genere ormai è assolutamente trasversale. Per il programma sul web dove si può cercare? programma sul web al sito festivalmixmilano.com, c'è anche una pagina Facebook che è Festival Mix Milano, che è molto attiva. Cerchiamo di operare e di agire attraverso i social. Il Festival Mix Milano quest'anno è stato fondamentalmente salvato dai crowdfunders, quindi da un'operazione di partecipazione alla produzione, al processo produttivo dal basso, con una campagna che ha rimesso al centro l'idea della cultura come dono e ha coinvolto i finanziatori a partecipare regalando a sé e agli amici o ai giovani, al pubblico giovane o a chi non ha gli strumenti economici, la possibilità di venire a vedere i film e di accedere alla programmazione del festival. Giampaolo, è stato un piacere come ogni volta, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo e buon ascolto. A presto, ciao. A presto. Giampaolo Marzi, direttore della 29esima edizione del Festival Mix Milano di cinema gay, lesbico e queer culture, dal 3 al 6 luglio. Ritroviamo il nostro regista operaio Giuliano Bugani, in questo caso regista del documentario Il Sole Contro, 7 luglio 1960 a Reggio Emilia, che sarà presentato in anteprima nazionale all'Arena Stalloni a Reggio Emilia il prossimo 6 luglio. Giuliano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Lorenzo, ciao a tutti voi, grazie. Senti Giuliano, si parla già dal titolo di una data storica ben precisa, raccontaci un po'. Niente, il documentario che ho realizzato, l'ultimo documentario in ordine di realizzazione, è un documentario che ricostruisce il giorno del 7 luglio del 60, quando la CGIL proclama lo sciopero generale a Reggio Emilia e la polizia spara al Terzo Duomo e uccide 5 operai. Senti, com'è nato questo progetto? Ma il progetto nasce perché io ho conosciuto, quando ho pubblicato un mio libro di poesie nel 2013, Matteo Pioppi, che è il fondatore della casa editrice Beberte Edizioni, e l'ho conosciuto e Matteo voleva far scrivere un libro sul che è reggiano, anche se la casa editrice di Bologna è reggiano, quindi voleva pubblicare un libro sulla storia di questa strage. Allora insieme diciamo, facciamo anche un documentario, poi lo alleghiamo in vendita insieme al libro, e così nasce il progetto Il Sole Contro, che è un titolo simbolico che sta a rappresentare lo Stato contro, no? Il sole come simbolo dello Stato e quindi lo Stato contro. E quindi il progetto nasce nel 2013, una gran fatica a trovare i finanziamenti, abbiamo trovato i finanziamenti attraverso una raccolta di crowdfunding avviata un anno e mezzo fa, dove hanno contribuito decine e decine e decine di cittadini di Reggio e non solo, l'Arci di San Polo Densa in provincia di Reggio Emilia, l'Ampi di Scandiano, e insomma una collaborazione massiccia. Giuliano, non si è trattato però di un episodio isolato, perché il luglio 1960 in Italia ha portato manifestazioni ovunque e altrettanta repressione, giusto? Sì, infatti la premessa va fatta. Dunque, nel 1960, nel maggio del 60, si costituisce il primo e unico governo Democrazia Cristiana con l'appoggio esterno del Movimento Sociale Destra Nazionale, presieduto da Almirante, e cominciano i primi scioperi nel maggio del 60. Poi si arriva al primo luglio del 60, quando a Genova Almirante convoca un comizio del Movimento Sociale, ma 100.000 genovesi si riuniscono in piazza, cacciano Almirante dalla piazza e cacciano anche la polizia che voleva reprimere la manifestazione dei lavoratori che si opponevano al comizio di Almirante. E quindi tutto questo poi segue ovviamente una repressione fortissima in tutta Italia, dove in tutta Italia la polizia spara Altezza Duomo, Alicata, in Sicilia, Modena, spara Altezza Duomo uccidendo diverse persone nel corso di diverse settimane, perché gli scioperi contro questo governo di CMSI cominciano nel maggio-giugno del 60, quindi perché culminano poi il 7 luglio, poi arrivo. Però vorrei ricordare anche che a Roma c'è una grande manifestazione dei parlamentari del Partito Comunista con Ingrao e Pajetta, che vengono caricati dalla polizia a cavallo e picchiati, e la manifestazione organizzata dal PC a Roma alla fine di giugno viene repressa, poi appunto la manifestazione di Genova e poi la manifestazione finalmente del 7 luglio a Reggio Emilia, dove la questura impedisce la manifestazione in piazza e concedono soltanto il teatro disponibile per 300 persone, dentro il quale la CGIL può fare il comizio. Ovviamente arrivano più di 30-40 mila lavoratori da tutta la provincia di Reggio Emilia. Ci sono dei rinforzi della polizia, ma nel documentario raccontiamo per esempio che due giorni prima del 7 luglio arriva a stazionare nella ex caserma Zucchi di Reggio, in centro a Reggio, venne fatto stazionare un plotone specializzato di corpi speciali della polizia della Celere di Padova, specialisti in repressione, e venne fatto stazionare due giorni prima della strage. E quindi questo per dirti che, se ho tempo di parlare. Sì, sì, vai tranquillamente. Questo per dimostrare che questa strage era stata, il documentario vuol dimostrare che questa strage era stata premeditata. Sì. Perché vorrei ricordare che questa tutto questo clima di da maggio fino a luglio aveva paventato la possibilità di un colpo di Stato. Contro le manifestazioni della CGIL che si opponevano al governo Tambroni, che il governo Tambroni era quello appunto Democrazia Cristiana, Movimento Sociale, e quindi questa polizia speciale arrivata da Padova due giorni prima, ci sono testimonianze nel documentario che raccontano per esempio di poliziotti che sparavano appunto ad Altezza Duomo, poi ci sarà il processo, poi dirò due parole sul processo, ma c'erano questi poliziotti praticamente che miravano inginocchiandosi sull'asfalto, quindi mirando Altezza Duomo, e documentati avevano la bava alla bocca, cioè proprio la tuta mimetica dei corpi speciali, si dirà era completamente sommersa dalla bava di questi poliziotti che sbavavano. E vorrei ricordare che i familiari delle vittime, delle cinque vittime, che dopo ricorderei anche i nomi se vuoi, durante il processo chiesero di venire in possesso degli indumenti della polizia e degli indumenti dei feriti, dei morti, e la polizia sequestrò sia gli indumenti dei feriti sia gli indumenti della polizia, della Celere e dei carabinieri stessi. Quindi non ci sono le uniche prove che sono rimaste di questa strage sono gli oltre 2000 proiettili sparati. Mm-hmm. Parliamo di 2000 proiettili. Sì, sì, sì. Senti Giuliano, per quanto riguarda la memoria storica, ecco, come è vivo a Reggio Emilia il ricordo di quella strage? Ah, Reggio Emilia è un ricordo vivissimo, cioè a un reggiano, se tu gli dici parlami dei morti di Reggio, la gente si commuove, cioè è un ricordo come parlare del 2 agosto a Bologna, come parlare di Piazza Fontana a Brescia, insomma è una cosa, è una ferita ancora forte, una ferita aperta, sì, sì, infatti sì. abbiamo fatto fatica a trovare, perché il documentario è raccontato dai manifestanti dell'epoca che oggi hanno 75-80 anni. Mm-hmm. Quindi nonostante l'età si sono detti tutti disponibili a raccontare questa storia. Abbiamo rintracciato addirittura che non è stato difficile, il presidente dell'ANPI nazionale, Smuraglia, che era avvocato del PC allora, dei manifestanti e delle familiari delle vittime, e l'avvocato che Smuraglia ha 94 anni e esercita ancora l'attività di avvocato, oltre che presidente della nazionale dell'ANPI, e abbiamo rintracciato anche l'avvocato Felisetti, che ha 96 anni e che era avvocato anche lui insieme a Smuraglia e ad altri avvocati dei familiari, e lavorarono tutti gratis. Mm-hmm. Lavorarono tutti gratis per le vittime. Senti Giuliano, mi dicevi della vicenda processuale, ecco, raccontaci un po' di questo. Il documentario riporta anche alcune fasi processuali, perché intanto il processo venne spostato a Milano e non venne svolto a Reggio, perché ovviamente stiamo parlando del 1960, quindi una magistratura completamente ancora reduce dall'epoca fascista, perché tu sai che la magistratura fascista venne poi ripristinata durante il regime democratico dopo il 45, quindi il processo venne spostato a Milano e si concluse con il fatto non costituisce reato, perché vennero accusati il commissario Caffari, Panico Caffari, e il poliziotto, l'unico poliziotto che è documentato nelle fotografie, che inginocchiato spara contro Emilio Reverberi, che è aggrappato a una sedia cinesca, gli spara proprio alla schiena, adesso poi dirò anche i nomi degli altri. E quindi il processo si conclude dopo un interrogatorio farsa, dove gli oltre 60-80 poliziotti interrogati vengono ovviamente addestrati a rispondere, e oltre 60 manifestanti vengono incarcerati, rimarranno in carcere anche fino a 6-8 mesi, 5 manifestanti vengono uccisi, e tutto questo si conclude con il fatto non costituisce reato. Mm-hmm. A questo punto ricordiamo anche le altre vittime. Sì. Giuliano. Allora, Lauro Farioli, 22 anni, Ovidio Franchi, 19 anni, Marino Serri, 41 anni, Afro Tondelli, 36 anni, e Emilio Reverberi, 39 anni. Senti Giuliano, il tuo documentario dopo questa anteprima nazionale a Reggio Emilia, ricordiamo il lunedì 6 luglio prossimo, e che vita avrà, e se ci sono in rete informazioni sul tuo lavoro? Sì, allora in rete potete trovare sul sito della casa editrice Bebert Edizioni notizie riguardo questo documentario, perché a settembre uscirà il libro del quale accennavo prima, che avrà in allegato il DVD. Se invece uno vuole soltanto il DVD, può fare richiesta solo del DVD, cioè del documentario, oppure può contattarmi direttamente me. Io ho un sito che si chiama Indie Ground Film, oppure sono sfacciato, posso chiederti se possono rivolgerti anche alla tua radio. Bene, non lo so, per informazioni io giro sicuramente il tuo sito internet, insomma, che è quello dove tieni conto di tutti i tuoi lavori. Sì, sicuramente. Sì. Sul sito Indie Ground Film c'è il mio numero di telefono, e consiglio di telefonarmi piuttosto che scrivere mail, perché le mail del sito solitamente vanno perse, quindi preferirei che telefonaste al cellulare dove c'è scritto al link contatti, oppure appunto rivolgersi a Bebert Edizioni, che rispondiamo sicuramente, insomma. Giuliano, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo per questa anteprima del 6 luglio. Lorenzo, ti ringrazio tantissimo. Federico. Per la tua gentilezza. Federico, scusa. Ciao Giuliano. Ti ringrazio tantissimo. Ciao. Ciao ciao. Giuliano Bugani, regista del documentario Il Sole Contro, 7 luglio 1960, Reggio Emilia. Quest'oggi ce la siamo presa un po' più comoda, anche perché ve ne sarete accorti e accorte che la trasmissione Tracce di Cinema è in pausa estiva, quindi se ne riparlerà a settembre. Siamo con l'ultimo appuntamento, l'ultimo collegamento per la giornata di oggi, per questa settimana di Visionari, e siamo in collegamento con Valerio Gatto Bonanni, co-regista della miniserie web di video tutorial, così mi ha segnato, per migranti, Black Reality. Valerio, tra l'altro, si può dire che tu eri una delle voci di questa radio? Certo che si può dire. Stavamo il giovedì ogni giorno col Valle dalle 3 alle 4 e mi manca assai. Ti manca assai. Chissà, magari non si può mai dire, ma magari il Valle tornerà. Certo, il Valle tornerà, assolutamente. Allora Valerio, di Black Reality parliamo, insomma, di come è nata questa esperienza che ha portato anche alla realizzazione di un documentario prima ancora di questa miniserie web. Dicci un po' di cose. Allora praticamente Black Reality nasce nel 2012 abbiamo fatto lo spettacolo, nel 2012 io, Gianluca Riggi e Flavio Cianzo l'abbiamo pensato, appunto era un periodo di sbarchi, politici che facevano campagna elettorale, insomma stessa cosa di adesso, e sui migranti, e quindi abbiamo deciso di fare un reality, una sorta di giochi senza frontiere per i migranti, per ottenere il permesso di soggiorno. E fu quello all'inizio un po' di una sfida, di una scommessa, di cercare di parlare di questo tema giocando, quanto meno prendendolo, cercando di dare, di fare anche un po' ironia e provocare, sia a sinistra che a destra, insomma, sicuramente dove a destra è molto più, insomma, ne dicono molte di più. e da lì abbiamo continuato a lavorare per altri 2 anni facendo laboratori e spettacoli. Quest'anno, oltre a fare laboratori insieme a Giovanni Greco, Flavio Ciancio, Nosprara, Gerini e al Teatro del Libe di Ostia, al Quarticciolo, il nostro gruppo si è formato, una piccola compagnia, abbiamo deciso di che non volevamo più fare uno spettacolo teatrale, ma volevamo inventarci per lavorare in un'altra maniera, cercare di parlare di queste cose con un altro linguaggio. E quindi abbiamo detto, va bene, scusa, il genere dei tutorial è un proprio genere, facciamolo per i migranti. Chiaramente il target è sia autoctoni che migranti, però diciamo sono loro i protagonisti di questa mini web serie. Senti, come è pensata questa miniserie? Ci sono delle, ho visto i primi video, si tratta delle pillole, sono pochi minuti in uno stile tra il teatro e la gag, insomma. Sì, sono appunto ogni puntata è un po' una puntata a sé, di per sé appunto sono delle piccole vademe come guide, chiaramente il linguaggio è surreale, quindi non ci si aspetti una vera e propria guida, un vero e proprio tutorial, più in questo caso una sorta di genere dove noi ci stiamo per denunciare o per prendere in giro certi fenomeni. Quindi ogni puntata si svolge attorno a un tema. Il primo tema era come si affronta un razzista, e da lì allora c'era un dialogo con un razzista, cercando di fargli cambiare idea, cercando di trovare la possibilità di avere un dialogo con lui, cosa invece impossibile, perché i due migranti ci provano in tutti i modi, parlando di donne, parlando di lavoro, parlando di qualsiasi cosa, anche dandogli ragione, ma diventa impossibile, e poi si svela alla fine. Quindi le abbiamo pensate come sì, piccole pillole da 2-3 minuti, essendo andando sul web abbiamo voluto che fossero il più veloci possibili. Sono in qualche modo delle sketch comedy, o quantomeno stiamo anche su quel genere lì. Poi un'altra cosa che abbiamo provato a usare è molto il l'aspetto, diciamo, di immagine, raccontare delle cose solo per immagini, e quindi colonna sonora, situazioni, campi larghi, piani sequenza. In questo caso il tutorial che abbiamo fatto si chiama Mimetizzarsi o nascondersi. Siamo partiti da una riflessione che era che alle volte uno si chiede l'inclusione o l'integrazione ai migranti, e spesso questi ragazzi si devono mimetizzare con la nostra cultura o nascondersi per non farsi menare, cosa che purtroppo succede sempre più spesso. E quindi il mimetismo in questo caso è stato una sorta, la puntata era una sorta di mini documentario sul mimetismo animale. E quindi in quel caso noi all'inizio volevamo addirittura mettere la voce narrante tipo Piero Angela. Senti Valerio, per quanto riguarda le uscite di queste pillole, avete pensato a una cosa cadenzata o è un po' casuale? No, noi quest'anno appunto, essendo officina di teatro sociale della Regione Lazio per 2 anni, abbiamo fatto tutto il lavoro di preparazione e di produzione durante tutto l'anno, e poi a giugno abbiamo lanciato queste 3 prime puntate, dal 2 giugno, che era la festa della Repubblica, fino al 20, che era la giornata del rifugiato. E quindi insomma, abbiamo creato un macro evento in cui ci siamo messi a spingerli sul web, facendo una vera e propria campagna sociale. Andavamo sui commenti dei politici e mettevamo e postavamo i video, andavamo sulle bacheche dei personaggi famosi che magari si sono schierati pro o contro. Abbiamo lavorato in questa maniera. Per il futuro devo dire che noi vogliamo continueremo, stiamo cercando dei produttori per farne di nuove. Ne abbiamo già immaginate diverse puntate, quindi poi l'uscita probabilmente sarà di nuovo a fine anno, forse la lanceremo uno ogni tanto. Però questa, diciamo, sul prossimo anno stiamo ancora capendo. Però ci piace, perché abbiamo avuto un sacco di riscontro, sia di visualizzazioni sia di giornali che ne hanno scritto parecchio. Allora, non mischiamo le carte, perché del documentario ne parleremo in un'altra puntata, voglio parlarne bene. Però per i riferimenti internet, per Black Reality, soprattutto per questa miniserie, ci lasci i dettagli? Allora, sì. Si può trovare sia Black Reality, così come è scritto, Black Reality, su Facebook, su Twitter e su YouTube. Su YouTube in particolare, Black Reality, appaiono delle cose assurde americane. Se si cerca tutorial per migranti, ci siamo solo noi. Ok, senti, un abbraccio Valerio, ci sentiamo per le prossime novità. Sì, grazie Fede. E poi appunto, come hai detto, mi piacerebbe molto poterne parlare con comodo, insomma fare una puntata insieme, raccontare il documentario e tutte quante cose. Sì, sì, sì, sì, sicuramente. A presto allora. Grazie a te, ciao Fede. Ciao. È tutto per quanto riguarda Visionari di questa settimana. Torniamo giovedì prossimo, dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e più in generale sulla trasmissione le trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.